Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere e poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. No, Star Trek non c'entra, cioè in un certo senso c'entra, ma l'amico immaginario che incontriamo oggi non è un astronauta, è un texano di Galveston, un texano anomalo possiamo dire, nel senso che difficilmente lo vedremo cavalcare un toro o indossare degli speroni, sempre che non sia travestito da qualche personaggio dei fumetti a qualche Comic Con. Difficile anche questo, in realtà i fumetti che preferisce hanno altri protagonisti, di solito supereroi classici ma non solo. Vive con un coinquilino nell'appartamento 4A al 2311 North Los Robles Avenue di Pasadena. È uno scienziato, i suoi amici sono scienziati, la sua fidanzata è uno scienziato, indaga sull'universo, le stelle, l'origine di tutto. Insomma, il suo campo di studio è la teoria del Big Bang, The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Sheldon Lee Cooper, segno zodiacale Toro. Non che creda all'astrologia, piuttosto all'astronomia, anche se l'unico grande campo di gioco per la sua eccezionale intelligenza, per il suo quoziente intellettivo da 187, è la fisica teorica, in particolare la teoria delle stringhe. Ma procediamo per gradi e conosciamo il nostro amico di oggi. Ecco a voi Sheldon Cooper. Osservando i vostri freschi volti giovanili, mi torna in mente quando anch'io stavo decidendo del mio futuro accademico in qualità di semplice specializzando. Ed ero già infinitamente più avanti di voi, nonostante dovessi andare a letto alle 21. Ora, potranno esserci una o due persone in questa stanza che hanno quel che serve per avere successo nel campo della fisica teorica, sebbene più plausibilmente passerete la vita ad insegnare alle elementari come costruire vulcani con lava di bicarbonato di sodio. Oh, grande Giove. Per farla breve, chiunque vi abbia detto che un giorno sarete in grado di dare un contributo significativo alla fisica vi ha giocato un brutto scherzo, uno scherzo davvero crudele. Qualche domanda? Ovviamente no. Io piango per il futuro della scienza. Adesso, se volete scusarmi, è uscito il nuovo numero di Batman. Andiamo, Leonard. Bazinga. Galveston, come dicevamo, è una cittadina texana nell'area metropolitana di Houston. Qui è nato Barry White, il re del sole della disco, sinonimo di passione e carnalità, follia e irrazionale, sintesi di ogni debolezza e fragilità umana. A Galveston, quindi, queste qualità dovevano essere già state ampiamente distribuite quando vide la luce una delle autonominate esimenti più brillanti della nostra epoca. Penny, io ho un quoziente intellettivo di 187 e non credi che se ci fosse stato un modo per consumare una zuppa a casa mia ci avrei già pensato? Potevi ordinarla a domicilio. Forse manca un po' di senso pratico, del resto è un fisico teorico con un dottorato ottenuto a 16 anni e una cattedra alla Caltech di Pasadena prima dei 30. Una sola donna può vezzeggiarlo, la sua nonnina, che lo chiama cuore di panna. Per il resto del mondo è Sheldon Lee Cooper. Sheldon abita con l'amico Leonard Hofstadter nell'appartamento 4A al 2311 North Los Robles Avenue a Pasadena. È fermamente convinto di vincere un giorno il premio Nobel e vive nel mito di Stephen Hawking e Leonard Nimoy. Non capisce il sarcasmo e veste sempre nello stesso modo. Polo a maniche lunghe e maglietta ispirata al mondo dei fumetti, preferibilmente con il simbolo di lanterna verde. Non sa sorridere, tanto da dover imparare a farlo, e come ogni adulto che in fondo nasconde in sé un bambino solitario, non sa nemmeno chiedere scusa. Il suo universo, al di là della teoria delle stringhe, suo campo di ricerca è in divenire, e con Leonard, Penny, Howard, Raj, la fidanzata Amy e Bernadette forma il gruppo di nerd di successo di The Big Bang Theory. Maniaco dell'ordine, categorizza tutto ed etichetta tutto, persino l'etichettatrice. Metodico, odia i cambi di programma. Ogni giorno della settimana è dedicato a una precisa attività. Il sabato alle 20:15 fa il bucato, il giovedì gioca ad alo e il martedì sera mangia cibo cinese. Siede in uno e un solo posto sul divano di casa. È germofobo e non usa i mezzi pubblici, a meno di non avere con sé i suoi speciali pantaloni da autobus. Ma delle sue manie, che fanno impazzire amici e vicini, parleremo più avanti. Una sola cosa lo appassiona più di se stesso e lo rende docile: i treni. Bene, possiamo aggiungere la stazione di Jerry alla lista dei negozi di trenini nei quali Sheldon Cooper non metterà mai più piede. Serataccia, Casey Jones. Non puoi immaginare quanto. L'avevano annunciato come un dibattito su pregi e difetti delle scale di riduzione dei trenini, ma in realtà era una trappola per intimidire degli scemotti senza spina dorsale e fargli comprare dei kit base in scala H0. Che hai nella busta? Non mi va di parlarne. Non è una spina dorsale, se vuoi saperlo. C'è chi lo odia, a volte anche i suoi più cari amici, e chi invece lo ama. Amy Farrah Fowler, la fidanzata neurobiologa trovatagli da Raj e Howard tramite un sito di incontri. La sola che abbia il coraggio di ammettere che senza Sheldon forse le serate intorno al cibo d'asporto nel salotto di Los Robles Avenue non esisterebbero. Ed è il momento di introdurre la nostra prima ospite di oggi, Lorenza Negri, giornalista e critica televisiva, esperta davvero di serie TV, grande appassionata di The Big Bang Theory e del nostro amico immaginario Sheldon. Lorenza, ti faccio subito una domanda secca. Sheldon Cooper, con tutte le sue manie, ossessioni, idiosincrasie, è pazzo? Beh, prima di tutto non è pazzo, non è matto. La mamma da piccolo l'ha fatto testare e ha scoperto che un povero bambino era un bambino come gli altri, solo un po' diverso. E la caratteristica di Sheldon, che bene o male condivide anche con gli altri personaggi della serie di Big Bang Theory, è che lui è un geek. Si parla spesso di nerd, ma lui non è solo un nerd, non è solo un secchione, lui è un appassionato di videogiochi, serie, fumetti. Rispetto agli altri, ha un carattere un po' particolare. Diciamo che è un po' la moda, rispetta un po' la moda del momento, vuole questi personaggi che siano un po' strani, poco amichevoli a prima vista, ma che poi si fanno amare con tante piccole idiosincrasie. Nel caso di Sheldon, come resistergli? Al suo modo di voler bene al prossimo maltrattandolo e considerandolo una specie inferiore, o piuttosto come resistere al suo modo di dire alla fidanzata che in realtà le vuole bene solo perché ne tollera la presenza. Una delle caratteristiche del nostro amico immaginario è quella di essere pieno zeppo di manie, fissazioni, fobie e appunto idiosincrasie. Proviamo a elencarle tutte. Penny? Leonard? Che c'è? Il postino bussa sempre due volte, Sheldon Cooper tre. Le sue manie e fobie, radicate abitudini che uno psicologo chiamerebbe rituali magici, non svolgono solo la funzione di delineare il personaggio del fisico, ma sono vere e proprie parti integranti della trama. L'intuizione degli autori è stata proprio quella di integrare in ogni gesto del quotidiano, anche il più piccolo, l'insana attrazione per la coazione a ripetere, la pedanteria, la petulanza capricciosa di un bambino. Illogica per eccellenza e di conseguenza stridente in un emblema di razionalità. Sheldon Cooper ha una settimana scandita minuto per minuto, secondo ritmi precisi e mutabili, resi noti a tutti, così che con gli altri, che siano amici o conoscenti, non vi sia la possibilità di alcuna interferenza. Lo ha scoperto subito Leonard il giorno del suo primo incontro con quello che sarebbe diventato il suo migliore amico. Ecco, questo è il bagno. Ti liberi regolarmente? Immagino di sì. Non serve a niente limitarsi a immaginare. Specifica, quando evacui i tuoi intestini? Quando ne sento il bisogno. È questo il tuo atteggiamento? Mi dispiace, non affitto agli hippie. Bentrovati all'amico immaginario. Io non sono matto, mia madre mi ha fatto visitare. Sta Stavamo parlando delle mille manie di Sheldon Cooper, delle sue idiosincrasie e delle sue paure. Sheldon è germofobo, ipocondriaco, odia gli uccelli e al cinema, a proposito di coazione a ripetere, applica il medesimo schema di comportamento che lo ha portato a scoprire il suo arcinoto posto sul divano con il metodo empirico. Io vado a cercare dei posti. Ma no, li abbiamo già presi. Non i posti giusti. Ha! Ha! Ha! Che sta facendo? Sta cercando il punto ottimale di ascolto. Ha! Fa sempre così al cinema. A volte si porta uno xilofono giocattolo. Oh! Oh! Scusa, non so cosa dirti, sono desolato. Ma no, va tutto bene, dai, è carino. No! No! Complimenti, eri già seduto al posto giusto. Nemmeno la malattia lo fiacca. Basta dire Soffice Kitty perché sulle labbra di un fan di The Big Bang Theory si apra un sorriso. La canzone che Penny è costretta a cantargli ogni qualvolta Sheldon si ammali costituisce un altro momento molto amato. Ecco allora un altro rituale magico di infantile che riporta il nostro fisico teorico ad essere umano, troppo umano. Puoi cantarmi Soffice Kitty? Cosa? Mia mamma me la cantava sempre quando ero malato. Ma io... mi dispiace, non la te conosco. Te la insegno. Soffice Kitty, calda Kitty, bel micino tu. Dorme Kitty, prr, prr, prr. Adesso tocca a te. Soffice Kitty, calda Kitty, bel micetto tu. Gioca Kitty, dorme Kitty. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. E per parlare di Sheldon Cooper non possiamo non parlare anche di Joseph Parsons, detto Jim, cioè l'attore quarantenne che lo interpreta. Infatti ne parleremo tra poco. Ma per noi italiani è quasi altrettanto importante la voce che Sheldon e Jim Parsons hanno nella versione nostrana. Stiamo parlando quindi del talentuoso doppiatore italiano Leonardo Graziano. Un curriculum lungo un chilometro tra film, serie TV e cartoni animati, ma per noi soprattutto la voce del nostro amico immaginario, Sheldon Cooper. Leonardo, intanto grazie di parlare con noi. Come ci si sente a fare la voce ufficiale nella sitcom di maggior successo negli ultimi anni? Intanto un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio 24. È un personaggio meraviglioso. Sono contentissimo di aver vinto questo provino su questo personaggio così particolare, così articolato. E sono contento che il pubblico abbia apprezzato il mio modo di fare Sheldon, che è leggermente diverso nell'originale, perché ovviamente abbiamo una voce abbastanza diversa, ma abbiamo delle corde in comuni molto simili. Quindi sono contento che il pubblico che di solito adora l'originale abbia riconosciuto nel prodotto italiano una certa somiglianza e una voglia di fare quello che è stato in originale. Quindi di questo sono molto soddisfatto e felice. Quando c'è il pubblico che viene da te e così gratuitamente non ti conosce, ti fai complimenti, beh, insomma, da una gran soddisfazione. E per l'invidia di tutti i fan di Sheldon e della serie The Big Bang Theory, riveliamo ai nostri ascoltatori che tu hai incontrato Jim Parsons dal vivo. Racconta. Io ho avuto la fortuna di conoscere Jim Parsons, è simpaticissimo, totalmente opposto ovviamente al suo personaggio, ma come sono io, perché mi chiedono, ma tu sei come Sheldon? No, io non sono come Sheldon, semmai è Sheldon che ha una parte di me, nel senso che quando recito, quando doppio, uso una delle mie corde per fare quel personaggio, quando uso un'altra corda per fare un altro tipo di personaggio. Jim Parsons è Jim Parsons, quindi quando l'ho incontrato è stato molto carino, molto gentile, una persona molto discreta, educata, mi ha fatto una buonissima impressione. Quando ci siamo incontrati lui non immaginava, insomma, che la mia fisicità fosse così diversa dalla sua, mi ha guardato, è rimasto è rimasto sbalordito, ha aperto gli occhi, mi ha detto piacere in inglese e poi ci siamo abbracciati e ci siamo stretti la mano. Vedere i suoi occhi, tra l'altro poi sta impressione perché è altissimo Jim Parsons, non sembra, ma è molto alto. Quindi guardarlo ho detto, oddio, che cosa strana, che impressione particolare. Leonardo, grazie, ti chiedo solo un saluto all'amico immaginario da Sheldon Cooper. Sheldon è uno che direbbe all'amico immaginario, amico immaginario? Amico immaginario? Amico immaginario? Oppure direbbe, amico immaginario, sei seduto sul mio posto. E quindi prima di ripercorrere assieme il mondo di Sheldon, parliamo di quella persona senza la quale il nostro amico immaginario non potrebbe esistere, perlomeno non sarebbe lo smilzo nerd dalle fattezze che ricordano una mantide religiosa che tutti conosciamo e amiamo. E stiamo ovviamente parlando di nuovo di Jim Parsons, attore, texano anche lui, 40 anni per niente dimostrati. Uno di quei casi in cui la sovrapposizione tra personaggio e immagine pubblica dell'attore che lo interpreta è quasi totale. Allampanati, profondi conoscitori di sport senza essere in grado di praticarne alcuno, taglienti e texani. È nato prima Jim Parsons o Sheldon Cooper? Di Parsons sono pochissime le tracce prima dell'approdo sullo Sheldon Spot. D'inverno quel posto è così vicino al termosifone che staremo al calduccio, ma se uno vuole sudare dovrà abbracciarlo. D'estate sta su una linea di corrente fresca che si ottiene sia aprendo quella finestra che quell'altra. È di fronte alla TV, ha un'angolazione che non scoraggia la conversazione, ma non implica neanche la distorsione del parallasse, visto che non è lontana. Potrei dilungarmi, ma credo di aver chiarito il punto. Qualche comparsata in altre serie TV, la più nota è Giudice Amy. Alcune pubblicità nulla di memorabile fino all'incontro con Chuck Lorre e Bill Brady e ovviamente Sheldon Cooper, il ruolo per cui Parsons vince anche 3 Emmy e un Golden Globe, consegnatoli dalle mani di un'emozionatissima Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory. Caller, Matt Bomer, and from The Big Bang Theory, Kaley Cuoco. And the Golden Globe goes to... Oh my God, Jim Parsons! Oh my God, Kaylee, if you can't tell, is on the show with me. Se non ve ne foste accorti, Kaylee lavora nello show con me. Oh mio Dio, è così bizzarro. Un giorno aspetti che la CBS metta in onda lo show, poi aspetti ancora che vada in onda dopo lo sciopero degli autori e poi un giorno sei qui. You're waiting and days go by and suddenly you're at the Golden Globes with your whole cast and crew and I just grazie ai colleghi, grazie ai miei autori, che gaffa alla fine esce la verità, agli autori per aver creato un personaggio che amo recitare. Grazie a tutti e spero di non dimenticare nessuno. A Todd e a mio nipote, mi spiace per non poter essere al tuo compleanno. Grazie Hollywood Foreign Press, è un grande onore. Michael, happy birthday. I'm sorry I couldn't be at your party. Hollywood Foreign Press, thank you. It's such an honor. Thank you. Un'occasione per Jim per ringraziare anche il suo compagno Todd, con cui ha intrecciato una relazione pluridecennale, e la sua famiglia. Una famiglia a cui in apparenza è assai più legato di Sheldon, che vive con i parenti texani, un legame reso particolarmente difficile dalla profonda fede cristiana della madre. Ma torniamo ai punti di contatto. È lo stesso Parsons a giocare con la personalità del proprio alter ego, portandoselo quasi accanto anche durante le interviste, come questa con David Letterman, che chiede a Jim se la migliore qualità al giorno d'oggi non sia la socievolezza. Intendi dire contattare qualcuno su Facebook e diventi amico? Certo, capisco quello che dici. La cosa triste è che non sono più socievole come un tempo, e non mi importa. Chi si cura meno delle persone di Sheldon, che del resto fa della propria assoluta mancanza di empatia un punto d'onore? E così il quarantenne Parsons, che però a marzo ha approfittato del palco del celeberrimo Saturday Night Live per sottolineare in un monologo: io non sono Sheldon. I'm not that guy. Now on TV I play a genius with a physics PhD. He's meticulous. A bit ridiculous. But the truth is, that's not me. I'm not that guy. I'm not that guy. I'm a well-adjusted man. Not a Star Trek. Il mondo del nostro Sheldon, o Shelly come lo chiama la mamma, è fatto soprattutto dal suo gruppo di amici, tre scienziati, quelli che una volta erano definiti nerd. Il concetto di amicizia per Sheldon è un po' particolare. Leonard Hofstadter è di sicuro tecnicamente il suo migliore amico, quello la cui dotazione di pazienza, seppur non infinita, gli permette di sopportare più di altri le manie e le vessazioni continue di Sheldon. È il suo coinquilino dall'inizio della serie, firmatario del mitico contratto che lo vincola alle stranezze di Sheldon. Tu come sei diventato suo amico? C'era un volantino appeso in bacheca all'università. Cercasi inquilino, prego astenersi fischiatori. E hai accettato lo stesso? Pensavo stesse scherzando. Ti stupirebbe sapere quanti fisici delle particelle hanno un lato burlesco. Leonard è un fisico sperimentale, un po' la feccia per un fisico teorico come Sheldon, e si vergogna a tratti del suo essere nerd. È asmatico, intollerante al lattosio, il che gli provoca imbarazzanti fenomeni di meteorismo su cui si scherza a lungo durante la serie. Ama la vicina di casa, Penny, del loro rapporto da pupa e secchione, parleremo più tardi. E poi c'è Howard Wolowitz, ebreo, con madre obesa e oppressiva, con la quale vive fino a che la sua compagna, poi moglie Bernadette, lo convincerà a tagliare il cordone ombelicale, anche se si fa un po' per dire. Howard, apri la porta! Sono occupata! Sono occupata anch'io, vado ad aprire tu! Non posso! Sono sulla tazza del cesso! Era bisogno di sottolinearlo, non potevi dire sono occupata? Te l'ho detto che ero occupata, ma non si sta mai bene niente! Spero che sia una banda di quartiere, che qualcuno mi spari in testa! È una banda di quartiere, non gli dire che sono sulla tazza del cesso! Howard è il meno amico di Sheldon, quello che il nostro reputa poco intelligente, l'unico del gruppo di scienziati senza un PhD, cioè un dottorato di ricerca. È un ingegnere aerospaziale, poi astronauta sui Generis in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. È un sessuomane da astinenza cronica, questo almeno fino all'incontro, fidanzamento e matrimonio con Bernadette. Ha un rapporto quasi da coppia omosessuale anche con il quarto amico, l'indiano Raji Kuntrappali, astrofisico con gusti un po' delicati, diciamo, per un maschio alfa, rampollo viziato di una ricca famiglia di Nuova Delhi. Ha un disturbo psicologico, il mutismo selettivo, che gli impedisce di parlare con le donne se non da ubriaco. L'amico immaginario torna tra poco. Bentrovati all'amico immaginario. What do you think you're doing, nerd? Did you just call me a nerd? Geek? Yeah, nerd. Yes, I am a nerd, bookworm. I'm studious for my cerebral. Abbiamo definito Sheldon e suoi amici nerd, termine dispregiativo nato negli anni 70-80, che indicava i maniaci della tecnologia, quelli con le penne che spuntavano dal taschino, per intenderci, con propensioni verso la scienza ma pochissime verso la socializzazione e verso le altre persone, non parliamo delle donne. Ma dobbiamo essere precisi, Sheldon, Leonard, Howard e Raji sono una via di mezzo tra il suddetto nerd e il geek, una versione un po' meno sfigata del nerd e con interessi non solo scientifici, un termine più recente. Nerd o geek, Sheldon non simboleggia un perdente, forse si tratta di un nerd moderno? Ne parliamo con Giovanni Bocciartieri, professore ordinario presso la facoltà di sociologia dell'Università degli Studi di Urbino, dove insegna sociologia dei new media e internet studies, oltre a comunicazione pubblicitaria e linguaggi mediali. Professore, cos'è oggi il nerd? Sì, diciamo che probabilmente il nerd rimane lo stesso. Siamo noi che socialmente cambiamo il nostro modo di vederlo e di interpretarlo, perché probabilmente alla fine il nerd, come dire, rappresenta un po' una figura chiave della contemporaneità, cioè incarna un po' lo zeitgeist, lo spirito del tempo presente, un po' come il flaneur di Baudelaire in qualche maniera. Cioè oggi parlare di nerd significa avere a che fare con più consapevolezza con un soggetto che è meno sfigato, tra virgolette, come diceva lei prima, perché riconosciamo più la sua dimensione è passionale e il fatto che non è realmente un isolato sociale, ma che ha relazioni con altri che sviluppano con lui un senso di comunità. Non è un caso, per esempio, che in Big Bang Theory queste figure siano a cavallo fra l'essere nerd ed essere geek, che in qualche maniera è un po' la dimensione più positiva che oggi incarnano questo tipo di figure, capaci con le tecnologie, che sanno sviluppare, molto smart, completamente immersi nella cultura pop, che lavorano sull'immaginario cinematografico, televisivo, che lo fanno proprio, lo rielaborano. È vero che leggono fumetti, ma non viene più vista assolutamente come una cosa negativa, ma diventa, come dire, un segno della loro differenza che in qualche maniera mostrano orgogliosamente. Ricordiamo tutte le magliette, per esempio, che Sheldon indossa con simboli di supereroi, che in qualche maniera vengono riconosciute dallo spettatore e che ti fanno sentire parte di una comunità. Professore, ci sono due figure della storia recente a cui forse si ispirano i personaggi del gruppo di The Big Bang Theory, e sto parlando di Bill Gates, il nerd anni 80, e Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook, un nerd dei tempi nostri, un po' diverso. Entrambi nerd, appunto, ma vincenti. Sì, sono dei vincenti. C'è molta nella caratterizzazione di queste due figure, c'è sicuramente molta opera anche e molto lavoro dei mass media, che in qualche maniera tenta ad accentuare questo loro tipo di carattere, proprio perché in qualche modo si tratta di due figure paradigmatiche. Anche qui sono due maschi di successo che lavorano in un campo ipertecnologico, che hanno in qualche maniera, che cavalcano il successo attraverso una loro forma, tra virgolette, di aggressività. Se pensiamo a Zuckerberg, è completamente anche in qualche maniera ha dei caratteri anche misogini, per come viene raccontato letterariamente, e se pensiamo anche al film The Social Network, in qualche modo incarna un nostro tipo di bisogno particolare che però mantiene una traccia che forse in Big Bang Theory non c'è, e che fa di Big Bang Theory una cosa così di successo, che non è semplicemente una rivista sociale iperindividualista che in qualche maniera tende a diventare capitalista, no? In Big Bang Theory c'è qualcosa di più, cioè è vero che c'è questa sottile anche cattiveria, se penso a Sheldon, misoginia, eccetera, che però in qualche modo lo porta poi a dover cercare di stare all'interno dei cerchi sociali e quindi di costruirsi comunque, volente o nolente, dei rapporti problematici, di amicizie attorno che lo supportano, che quindi è molto più vicino alle possibilità di identificarsi con questo tipo di figure. E bisogna dire che c'è anche un mondo femminile al fianco di Sheldon e del suo gruppo. Nerd, quindi, ma con una qualche strana capacità di attrarre donne, anche belle e intelligenti. Sentiamo la scheda di Francesca Prosperi. Buongiorno, Sheldon, li fai due salti con me? No. Perché no, dai? Penny, sappi che condivido pienamente la teoria dei molti mondi in base alla quale esistono un infinito numero di Sheldon in un infinito numero di universi, e sono in grado di garantirti che non mi dedico al ballo in nessuno di essi. Ce n'è uno in cui sei più divertente? Statisticamente in alcuni dovrei essere un pagliaccio fatto con le caramelle. Ma non ballo neanche in quelli. Immagino. Vuoi dei French toast? È il giorno dei fiocchi d'avena. Il prossimo giorno dei French toast ti preparo i fiocchi. Santo cielo, significa che per quel giorno ti troverò ancora qui? Let's go, girls. Se dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, dietro al successo di The Big Bang Theory c'è anche la capacità degli autori di affiancare a Sheldon, Leonard, Howard e Raji dei personaggi femminili altrettanto riusciti, forse stereotipati per qualcuno, ma non macchiette. E se di stereotipo si vuole parlare, non ce n'è altro di più duro a morire di quello della bella bionda e stupida. E Penny, la dirimpettaia di Sheldon e Leonard, alla sua prima apparizione ne sembra l'archetipo. Ah, sapete, sto scrivendo una sceneggiatura. Parla di una fanciulla che arriva a Los Angeles da Lincoln nel Nebraska per fare l'attrice e si ritrova cameriera alla fabbrica del cheesecake. È una storia autobiografica. No, io sono di Omar. una semplice ragazza del Nebraska, senza cognome, nel senso che in 7 serie non l'abbiamo mai scoperto, con una mai decollata carriera di attrice e un impiego al Cheesecake Factory, dove si distingue, ed è lei stessa a dirlo, per essere una delle peggiori cameriere mai esistite, cosa che Sheldon non manca mai di sottolineare, ma Penny è ben altro, è il quinto amico della compagnia, a volte il vero maschio. Ridà la roba al mio amico. Non so di che parli, pupa. Allora sei fortunato, perché oggi finalmente una ragazza ti toccherà nel tuo posticino speciale. Rimetti le cose a posto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho detto abbiamo. Una dinamica che si ripete nel tormentato rapporto sentimentale che la lega a Leonard, ma Penny non è l'unica bionda della serie, bionda è anche Bernadette, la minuta e tornita microbiologa che sposa Howard. In apparenza innocua e solare, Bernie, come la chiama il fidanzato e marito, è un concentrato di volontà di ferro, competitività e franchezza. Scusate, siamo in ritardo, Bernadette è rimasta bloccata al lavoro. Ottime notizie, un virus dei procioni ha appena attraversato la barriera tra specie e ora può infettare gli umani. Perché è un'ottima notizia? Nell'industria farmaceutica abbiamo detto più infezioni, più soldoni. Wow, magari prima va a lavarti quelle tue manine da procione. No, sta tranquillo, se l'avessi presa sarei già morta. E poteva restare solo proprio il nostro amico? Amy Farrah Fowler, rigorosamente per esteso, ai fan di Big Bang Theory basta il nome. Lei è la fidanzata di Sheldon, legata a lui, come è ovvio, da un rigoroso contratto tra fidanzati, sottoscritto paragrafo per paragrafo. Articolo 5. Tenersi per mano. È consentito tenersi per mano solo nelle seguenti circostanze. A. Una delle parti rischia di cadere da un dirupo, un precipizio o un cornicione. B. Una delle parti merita una sincera stretta di mano per la vittoria del premio Nobel. C. Conforto durante le vaccinazioni influenzali. Mi sembra un po' restrittivo. Sei libera di consultare un avvocato. Sono comunque ancora tante le donne che ruotano intorno a questi nerd di successo, dalle fidanzate di Leonard, moltissime, viste il suo carattere da loser, alle madri dei protagonisti, tutte assenti fisicamente, come quella di Howard, e Raji, o moralmente, come quella di Sheldon, o caratterialmente, come quella di Leonard. Oh sì, Leonard mi aveva detto che lei è una psichiatra. È una delle mie lauree, ma mi occupo principalmente di neuroscienze. Oh, e beh, io sono un'attrice. Perché? Che intende con perché? Alcuni studi indicano come molti di coloro che si dedicano alle arti sceniche soffrano di un locus esterno d'identità. Sì, non so cosa significa. Significa che valuti te stessa solo in base a come gli altri ti valutano, il che spesso è frutto di carenze affettive sofferte durante l'infanzia. E allora, ricapitolando, Sheldon in testa a un gruppo di amici nerd o geek che, nonostante le difficoltà di rapporti con le persone normali, qualche socializzazione con le donne riescono comunque ad averla. Una di queste, tra i motori trainanti della serie The Big Bang Theory, è la relazione tra Leonard e Penny, una bella ragazza di campagna, tutta birra e mondo reale, che il giovane scienziato riesce a conquistare pian piano, con dolcezza, magari con un po' troppa pressione e insicurezza, ma sicuramente molta, molta perseveranza. Di sicuro uno schema, quello di Penny e Leonard, molto da pupa e secchione. Non lo so, è che a volte è un po' difficile. Ovunque tu vada c'è sempre qualcuno che ci prova, anche se io sono lì accanto a te. E sono tutti più alti di me, perché sono tutti più alti? Scusami, è solo una mia paranoia. Sì, è un problema mio, no? Leonard, perché ti comporti in questo modo? Stammi a sentire, io sto con te. Sai che è te che amo, quindi puoi darti una calmata perché così divento matta. È la prima volta che mi dici che mi ami. Sì. Sì, dovremmo far finta che non sia una cosa grossa. È esattamente quello che faremo, perché sto per mettermi a piangere e sappiamo entrambi che se piango io, poi piangi anche tu. Hai ragione, va bene. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. La bella donna che si accompagna all'intellettuale, o più trivialmente la pupa e il secchione, un cliché fra cinema e TV. La più famosa è certamente Marilyn Monroe, che ha costruito gran parte della sua carriera sul personaggio della svampita, spesso associata a un amore intellettuale, da Come sposare un milionario al Principe e la ballerina, passando per la vita privata della Monroe, che poi stupida non era proprio, sposata con il commediografo Arthur Miller. Nata ieri, versione anni 50 con Judy Holliday e anni 90 con Melanie Griffith, racconta di una ex ballerina che si innamora del giornalista chiamato a istruirla, ancora una pupa e un secchione. Il capostipite dello stereotipo però è nella filmografia di Marilyn, gli uomini preferiscono le bionde e aggiungiamo le bionde tenderebbero, sempre un cliché, a essere un po' sceme. Reese Witherspoon ha guidato la rivincita delle bionde, ma il legame resta e spesso la bella, bionda o no, si accompagna al secchione, al nerd. Ci sono poi genietti che la loro bella se la sono creata, è il caso di Kelly LeBrock, la donna esplosiva, il film è degli anni Ottanta. Dando un'occhiata nella TV contemporanea, Bella e Secchione sono un po' Rachel e Ross in Friends, Summer e Seth in The O.C. La TV ne ha fatto anche un reality, La Pupa e il Secchione, la versione italiana dell'americano Beauty and the Geek, a produrlo un bello e pare intelligente come Ashton Kutcher. Lo sentite? Questo è il profumo di fumetti nuovi. Oh, sì. Bentrovati. L'ultima parte della trasmissione vogliamo aprirla con una vera e propria chicca per gli appassionati di The Big Bang Theory che abbiamo scovato in rete. Una chicca che arriva dritta dritta dalla settima stagione, in onda per il momento in Italia solo sulla Pay TV Mediaset Premium. Abbiamo scovato un pezzo d'Italia, esattamente nel 14° episodio, titolo originale The Convention Conundrum, tradotto in italiano L'incognita della convention. In questo episodio Howard Wolowitz sfoglia un fumetto ancora inedito, Colonus. La storia è del produttore sceneggiatore americano Ken Pisani, ma i disegni sono di un giovane disegnatore italiano, Arturo Lauria, alias John Moloch. È in linea con noi. Arturo, ci spieghi com'è possibile che il tuo fumetto sia finito addirittura tra le mani di Howard Wolowitz? È successo principalmente perché Ken Pisani è uno sceneggiatore, è uno scrittore, ha lavorato moltissimo tempo, è un navigato professionista, però principalmente nell'ambito delle serie TV e degli show televisivi. Un suo, almeno a quanto ho capito, un suo collega gli ha avuto tra le mani il promo di Colonus e ha avuto tra le mani questo fumetto, gli è piaciuto un sacco ed ha proposto lui stesso a Ken di insomma organizzare questa comparsata, questo cameo durante la settima stagione di Big Bang Theory. Questa persona, insomma, non ho idea di chi sia, però fatto sta che è un personaggio che ha lavoro sulla era uno del team che lavorava sulla settima serie di Big Bang Theory. E quindi niente, si è organizzato tutto da allegramente tra amici e si è creata sta cosa. Tra l'altro ho letto, paradosso dei paradossi, che tu non sei un fan di The Big Bang Theory. Io non è che non sono un fan, io semplicemente sono un nerd a metà, nel senso sono un disegnatore accanitissimo sin dalla nascita, ma ho scoperto i fumetti e quindi di riflesso anche le serie TV intorno ai 20 anni, perché fino a quell'età vivevo in un piccolo paesino che amo profondamente, e dove però insomma per certi versi siamo rimasti all'età del bronzo, guarda, per non dire della pietra, ed è una cosa meravigliosa su certi punti, ma per altri non lo è, nel senso che ero completamente sterile e insomma vergine anzi sul mondo dei fumetti e anche delle serie TV. Big Bang Theory è una di quelle che non ho guardato, cioè ne avrò visto un paio di puntate così sporadicamente, ma non l'ho mai seguito. E troveremo il fumetto di Arturo Lauria, Colonus, che è tanto piaciuto ad Howard Wolowitz, nei negozi entro la fine dell'anno, edito da Black Horse, grazie ad Arturo Lauria. Ma se Zack fa Superman, io voglio fare Lanterna Verde. Lanterna sono io. E tu fai Aquaman. Ma Aquaman non mi piace, è uno sfigato. Fa schifo vivere sott'acqua, fa schifo la pipì dei pesci. Scusa se intervengo, ma sono convinto che Aquaman faccia sovente uso dei suoi poteri telepatici anche per chiedere ai pesci di andare al bagno da un'altra parte. Ciao pupa, andiamo a festeggiare il capodanno alla fumetteria qui vicino. C'è una festa in maschera e tu diventerai Wonder Woman. Compresi i bracciali antiproiettile e il lazzo della verità. L'aereo invisibile era finito. Torniamo a parlare della serie nella quale vive il nostro amico di oggi Sheldon Cooper, The Big Bang Theory. Proviamo a capire assieme, in conclusione, quali siano le vere ragioni del successo di questa sitcom, che veleggia tranquilla in una settima stagione che dobbiamo dire non mostra segni di invecchiamento. Iniziamo da uno dei nostri esperti preferiti, Leo Damerini, autore del Dizionario dei Telefilm e della Vita è un Telefilm, tra l'altro direttore del Telefilm Festival. Leo, le ragioni del successo di The Big Bang Theory. È un registro sicuramente molto intrigante, il fatto di commissionare all'interno di un coppione tanti elementi, che sono fumetti, la fantascienza, elementi culturali anche alti, come la scienza, piuttosto che altri discorsi come il cinema, l'arte e tutto il resto, e farlo un po' come una sorta di cavallo di Troia per anche le nuove generazioni, che probabilmente magari Star Trek, il mito di Star Trek, tanto per citarne uno, lo hanno solamente accarezzato, sentito, e in qualche modo rimasticarlo, addirittura con lo stesso interprete, no, che lo aveva reso celebre, e rivederlo in una sitcom di oggi. Quindi questi elementi, che in realtà sono quelli portanti di Lorre, come di altri grandi geni della televisione americana, sono secondo me la fortuna duratura di una sitcom di questo tipo. Senza questi elementi, che in realtà richiamano in qualche modo, incarnano questo metalinguaggio che risulta vincente, probabilmente non sarebbe durata così tanto. E approfittiamo anche di un'altra nostra ospite, Lorenza Negri, giornalista, critica televisiva della rivista Film TV, esperta sul serio di serie, scusate il gioco di parole. Lorenza, sintetizziamo le ragioni per te del successo di The Big Bang Theory. Beh, la cosa più scontata è l'incredibile bravura del cast. Per quanto riguarda Jim Parsons, che è l'interprete di Sheldon e ha collezionato Emmy e premi uno sopra l'altro, ha ragion venuta, perché effettivamente è un cast di una bravura eccezionale. E non è poco, che è più difficile far ridere. E Jim Parsons è vero, la chiave di volta un po' dello spettacolo, un po' dello show, che ha saputo creare un personaggio che, senza rivelare troppo di sé, sempre cercando di nascondere, è amabilissimo, in un modo un po' originale. Ti propongo questa riflessione, Lorenza, perché c'è forse da dire che una ragione di successo è la parte di innovazione degli schemi classici della sitcom. Ci sono elementi di modernizzazione che forse hanno attirato un pubblico nuovo per questo genere televisivo, concordi? Beh, la sitcom, più che altro, il 90% dei casi è basata su una famiglia: mamma, papà, bambino 1, bambino 2, bambino 3, eventuali nonni, zii. Questa è una sitcom familiare, dove la famiglia è un nucleo che ha scelto di essere una famiglia, perché bene o male Sheldon, il suo coinquilino, i suoi tra virgolette amici, le fidanzate o mogli acquisite sono diventate una famiglia allargata, per cui questo è anche molto moderno. Ed è un tipo di situation comedy che finalmente fa breccia su un target che finora non era stato particolarmente considerato dalla situation comedy, ovvero quello del pubblico, il famoso 15-49 anni, che di solito guarda le serie alla House of Cards, per esempio, e invece si interessa anche a situation comedy. Tra l'altro è un successo che, come abbiamo detto, prosegue nonostante 7 anni di programmazione, e quindi ad oggi quasi 160 episodi andati in onda. Possiamo stare tranquilli per il futuro, Lorenza? Allora, prima di tutto c'è da notare che Big Bang Theory non ha subito la crisi del settimo anno, l'ha subita un po' prima, nel senso ci sono state una stagione e mezza che ha fatto un po' fatica a ingranare, che cominciava a mostrare segni di fatica. Questo perché hanno introdotto personaggi nuovi, personaggi femminili, e bisognava abituarsi un po' anche alla presenza di questi personaggi, alla loro interazione con i personaggi maschili, e effettivamente ha fatto un po' fatica a ingranare. Queste ultime stagioni sono tornate a essere molto divertenti, anche se le dinamiche sono cambiate. Il fatto che siano riuscite a fare il cambio, a cambiare le dinamiche in questo modo, gli dà più vita. Sappiamo che i contratti andranno avanti, le stagioni andranno ancora avanti per un po', e è una buona notizia. Siamo un po' tranquilli, chiaro che tenderanno a dilatare il più possibile l'evoluzione della storia tra Sheldon, la sua compagna Amy Farrah Fowler, e insomma sfruttarla il più possibile con evoluzioni a piccoli passetti. Abbiamo già visto qualche cosa, qualche miglioramento nella loro situazione, qualche passetto indietro. Andrà avanti così, si presume, ancora per un po', e se il ritmo resta quello siamo fortunati, insomma. E grazie a Lorenza Negri. Navigando in rete, cosa della quale, come da tradizione dell'amico immaginario, vi racconteremo per esteso tra poco, si scoprono alcune curiosità sulla serie. Tra queste il fatto che, secondo un'interpretazione, il titolo della serie, oltre ad alludere ovviamente alla teoria scientifica del Big Bang, in realtà si riferisca, con un gioco di parole intraducibile in italiano, alla possibilità che un nerd possa far colpo e concludere quindi il bang del titolo con una bella ragazza. Sappiate anche che le lavagne di Sheldon, che si vedono nella serie, rappresentano in ogni episodio una equazione diversa, non simboli a caso, ma vere e proprie equazioni, scritte tutte da David Salzberg, un professore di fisica e astronomia alla University of California di Los Angeles. È sempre il professor Salzberg a scrivere i dialoghi dei personaggi con i pieni zeppi di elementi legati alla fisica, all'astronomia e alla scienza in generale. Smettiamo di andare a caso, però, e diamo scientificità, che mi sembra proprio opportuno, alla nostra navigazione in rete, come d'abitudine. Ecco quindi cosa si trova sul web in merito a The Big Bang Theory. Il sito ufficiale è quello della CBS, il network che produce e mette in onda lo show. Su Facebook la pagina The Big Bang Theory ha più di 31 milioni di like. Dal 2009 esiste un account Twitter, @BigBangCBS, con 2,4 milioni di follower. Hanno un account personale ufficiale anche Kalei Cuoco, Kunal Nayar e Simon Helberg, Penny Rai e Howard. Basta arrivare a scrivere The Big perché YouTube completi la ricerca con il titolo completo. I risultati sono 914.000. Le immagini sono quelle del cast al completo, in ogni forma, fumetto compreso, colore e dimensione. Da sola si trova solo Kalei Cuoco e non sempre del tutto vestita. Per la ricerca delle battute e delle citazioni c'è la pagina wikiquote.org, anche in italiano, e la sezione wikia dedicata, ma in inglese. Doppio quiz personalità su floptv.tv, che personaggio di The Big Bang Theory sei? E su buddytv.com, The Big Bang Theory Personality Quiz. CBSStore.com vanta tutti gli oggetti più strani della serie e molte delle magliette indossate da Sheldon. Se volete giocare con i personaggi potete farlo anche nella versione Lego. ideas.lego.com/projects propone la ricostruzione dell'intero salotto dell'appartamento dei Genietti. Questa puntata dell'Amico Immaginario è finita. Giusto il tempo di ringraziare voi per l'ascolto, Chiara Pizzimenti, Barbara Righini, Francesca Prosperi e Roberto Frangipane per la collaborazione. È giusto il tempo per un'ultima clip sintesi dell'essere geek o nerd, dell'essere Sheldon Cooper. Hanno preso la TV, due laptop, quattro hard disk esterni, la PS2, la PS3, l'Xbox, l'Xbox 360, il Nintendo Classic, il Super Nintendo, il Nintendo 64 e anche la Wii. Ci piacciono i videogiochi.